in questi giorni si celebra l'anniversario della battaglia della Bolognina, che è appunto una battaglia che si è svolta il 15 novembre 44 qui tra le strade dei nostri quartieri, tra una brigata di gappisti e un enorme contingente di truppe nazifasciste che stavano facendo un rastrellamento in quartiere e sono incappate in una base partigiana. Ne è nato un conflitto a fuoco. Noi appunto abbiamo voluto celebrare questo momento non tanto per la battaglia in sé, che da un punto di vista storico non è così rilevante, o almeno non come ad esempio è la battaglia di Porta Lame avvenuta la settimana prima, ma è importante vedere come appunto la Bolognina è sempre stato ed è stata soprattutto durante la Resistenza un quartiere che ha ospitato truppe partigiane, che ha ospitato brigate gappiste e che ha spesso e volentieri solidarizzato con i partigiani, nascondendoli e coprendoli da rastrellamenti e denunce. Per questo appunto farete una festa di strada che si svolge tutto il giorno. Ti chiedo se puoi raccontarci un po' alcuni appuntamenti. Il luogo sarà la parte di via Ferrarese tra via Matteotti e via Donato Creti, dove appunto si affaccia la nostra sede. Partiremo dalle 10 del mattino con un aperitivo al Burnout qui in via Ferrarese, poi alle 11 faremo un dibattito che appunto avrà una parte più storica sulla battaglia, sul ruolo dei partigiani della Resistenza, e una più di attualità, quindi la nostra idea è quella appunto di collegare l'antifascismo e attualizzarlo all'oggi. E poi dal pomeriggio ci sarà musica, ci saranno concerti, chiaramente per tutto il giorno ci saranno stand gastronomici, ci saranno banchetti di distribuzioni, autoproduzioni. Ci sarà anche il concerto di Alessio Lega. Sì, esatto, ci sarà il concerto di Alessio Lega che canta Ivan Della Mea. Inoltre ci sarà chiaramente per tutto il giorno DJ Lugi farà DJ set. Dopo di loro ci saranno le birrette e chiuderanno la serata il Parto delle Nuvole Pesanti, mentre la mattina l'aperitivo di inizio sarà accompagnato dalla banda Roncati. A organizzare tutto al Circolo Gramma. Sì, siamo noi del Circolo Gramma che appunto operiamo principalmente in Bolognina. Negli anni abbiamo costruito un buon gruppo di compagni e compagni. Da 3 anni facciamo il Nuovo Cinema Bolognina, che è una rassegna di proiezioni a tema che facciamo al Parco della Zucca, chiaramente gratuito.